e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, pronte a ripartire anche in questa settimana che sarà di fuoco dal punto di vista meteorologico a Milano, quindi dobbiamo metterci, non lo so, la corazza antincendio. Cosa dici, Nicoletta? Dai, picchierà, ma noi rimarremo fresche, belle, no, ma noi siamo contenti. A noi piace il caldo, sì. Il freddo non è proprio la nostra dimensione. Allora, di cosa parliamo stamattina? Una puntata proprio cuore e denari, perché parleremo del nostro futuro. È vero, perché parliamo di ragazzi che vanno all'università. Allora, molti hanno già fatto le pre-iscrizioni, per un determinato tipo di università bisogna candidarsi con largo anticipo, altri magari sono ancora così indecisi sul corso di laurea per il prossimo anno, magari un po' impegnati anche con lo studio, perché sta partendo anche la stagione dell'esame di maturità. Mamma mia! E allora, per chiarire un po' le idee agli indecisi, presto esce una guida del Sole 24 Ore, noi ne parleremo questa mattina. Tu, Nicoletta, lo stesso farai un po' un punto, certo, della situazione. Perché anche noi accompagneremo, proprio come hai detto tu, in pieno stile cuore denari i nostri amici, e quindi affronteremo con l'aiuto dei nostri esperti questo passaggio così importante per il futuro di un ragazzo che dopo 13 anni di scuola deve decidere che cosa fare da grande e quindi deve individuare necessariamente il percorso che lo porta a realizzare il suo sogno o pensare proprio con i piedi per terra un po' il suo obiettivo. Non è facile, ci sono delle difficoltà oggettive, le esamineremo proprio con l'intento di capire a che cosa è importante dare la precedenza, su che cosa è necessario fare attenzione, perché no, come superare i limiti, come si dice sempre, trasformandoli in opportunità. Però ai genitori all'ascolto anticipiamo che parleremo anche con loro e di loro, perché noi siamo sempre più presenti, a volte anche un po' invadenti. Allora confrontiamoci, cerchiamo di capire come supportare i nostri figli in questa scelta senza prevaricarli e senza sostituirci a loro. Ci vuole quello che io chiamo un po' di distacco empatico, eh? Allora, in ogni caso, pensate che alcune università, oltre che all'orientamento per le matricole, organizzano anche incontri per i genitori, e questo è, di questo vi ho detto tutto. 800 24 00 24, chiamateci e vi chiedo: chi e che cosa vi ha aiutato a scegliere quando è stato il vostro momento? Avete seguito il cuore o avete seguito i denari? Esatto. E com'è andata? Si accettano consigli, raccomandazioni ed esperienze, e noi ci faremo raccontare proprio le esperienze di alcuni amici che amici. Altro che delle esperienze incredibili. Allora, è una scelta di cuore e denari, e quindi io parto subito con dei numeri, Nicoletta, naturalmente. Certo. Anche perché non si tratta di una scelta facile, non solo perché magari qualche volta così un po' i ragazzi fanno fatica a confrontarsi con quello che è il loro conflitto interiore: scelgo più la vocazione, quello che mi piace, o cerco di guardare un po' come sta andando il mercato del lavoro. Il tema è che la scelta è anche molto ampia in tema di disponibilità di offerta universitaria. Pensate che ci sono 2.288 corsi di triennali di primo livello, 2.182 corsi magistrali, 328 corsi a ciclo unico, totale quasi 5.000 corsi sulla rampa di lancio per il prossimo anno accademico, negli atenei pubblici, privati e nelle università telematiche italiane. E quindi immaginate che ventaglio disponibile per studenti, ma anche per le famiglie. Di fronte ad un'offerta così ampia, la scelta evidentemente non è immediata per i 250.000 che si iscriveranno a settembre all'università. Allora, noi intanto segnaliamo ai nostri ascoltatori che mercoledì prossimo, ve lo diciamo con due giorni di anticipo così non vi scappa, c'è la guida all'università in edicola con il Sole 24 Ore, che peraltro anche una novità, perché quest'anno è arricchita da un motore di ricerca online, www.ilsole24ore.com/università. E da qui proveremo a capire quali sono i temi al centro delle preoccupazioni delle famiglie. Intanto, quali sono i possibili sbocchi occupazionali del corso universitario prescelto? E poi sono tutti i temi che tocca la guida. Come orientarsi se si ha l'opportunità di farli, ad esempio, fra i corsi di respiro internazionale? E che fare se si inizia la vita dello studente fuori sede, fra la scelta dell'alloggio, borse di studio e detrazioni fiscali? Ci sono tante cose da sapere, e ricordate che a settembre, ultima informazione di servizio sulla quale adesso ci addentreremo nel dettaglio, Debutta lo Student Act, che prevede una no tax area per gli studenti economicamente più svantaggiati. Quindi mi pare una gran buona notizia. Tutti i temi, anche in questo caso, con cui potete confrontarvi con noi all'800 24 00 24, soprattutto con la prima ospite di oggi, che è la professoressa Alessandra Locatelli, delegata del Rettore per l'Orientamento e i Rapporti con il Sistema Scolastico dell'Università di Bologna. Professoressa Locatelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo fatto un super biglietto da visita alla trasmissione di questa mattina, perché ci teniamo molto con Nicoletta. Noi affrontiamo tante volte le questioni dell'educazione, dell'orientamento e poi degli sbocchi nel mondo del lavoro, e abbiamo tante volte affrontato la questione di come facciano a pugni la preparazione dei ragazzi usciti dall'università e le esigenze del mercato del lavoro. Per cui stamattina mi pare utile poter dare questi strumenti, se ce la facciamo, alle famiglie all'ascolto. Segnalo intanto, volentieri, grazie, che anche nella seconda parte parleremo un pochino di soldi, ci verrà a trovare un fiscalista esperto del Sole 24 Ore, Luciano De Vico. Allora, professoressa Locatelli, come vengono, come dire, tra virgolette, attrezzati i ragazzi che si presentano agli uffici per l'orientamento predisposti dalle università? Ovviamente lei ci racconterà dell'esperienza di Bologna. Quali sono le domande più diffuse e gettonate in questo momento? I punti interrogativi che lampeggiano sulla fronte dei nostri ragazzi? Allora, occorre dire che il ventaglio delle domande è amplissimo. Noi abbiamo sia studenti che hanno le idee molto chiare e quindi hanno già deciso che cosa sarà il loro percorso universitario, altri invece che necessitano di informazioni. La maggioranza delle domande riguarda quelli che sono, noi li chiamiamo i mestieri, cioè i nostri ragazzi, oltre a avere domande sull'offerta formativa, su quali sono i corsi di studio e i programmi che vengono svolti, vogliono sapere molto quali sono i mestieri che andranno a fare. Questa è una cosa molto interessante. Infatti, quindi molto concreti, quindi. Sono molto concreti, occorre però sottolineare che l'università deve preparare a un lavoro preciso. Noi ci rendiamo conto, cioè è forte questa domanda, perché probabilmente l'università non ha come compito quello di preparare ragazze e ragazzi che possano svolgere a menadito un compito A o piuttosto che un compito B, eccetera. Ma siamo convinti che le persone, cioè che i nostri ragazzi, debbano acquisire conoscenze generali, soprattutto debbano acquisire la capacità di imparare sempre cose nuove, perché noi ci rendiamo conto che stiamo preparando e prepareremo sempre di più ragazzi e ragazze a svolgere mestieri che ancora non esistono, diciamo così, e quindi occorre orientarli, dotarli anche di questi strumenti. Con un concetto che va molto di moda, diciamo che andiamo alla, come dire, alle professioni del 4.0, no? Legato sì, anche all'evoluzione industriale. Quindi proprio in relazione a quello che ci stava argomentando adesso, professoressa Locatelli, quali sono i corsi che rappresentano, anche in virtù di una prova di adeguarsi alle esigenze nuove del mercato del lavoro, i corsi che rappresentano un'assoluta novità per le università italiane? Allora, io le posso descrivere i corsi che, per esempio, abbiamo i nuovi corsi che abbiamo istituito quest'anno, senza però, ci tengo a precisare, nulla togliere a tutta l'enorme numero di corsi che abbiamo e che continuiamo a proporre, convinti della validità della nostra offerta formativa. No, quest'anno l'Università di Bologna propone ad esempio una laurea triennale in genomics, poiché questo piace, è un campo... Nicoletta, mi piace molto. Piace. Però dall'altra parte noi abbiamo la scuola di lettere, ha istituito il corso in Humanital, che adesso non mi viene, in Digital Humanities and Digital Knowledge. Quindi lei capisce tutto quello che riguarda la digitalizzazione dei testi antichi, ma non solo, le esperienze multimediali che adesso sono molto, diciamo così, all'avanguardia per quello che riguarda le mostre di musei. Certo. Oppure... questa è una buona notizia, perché spesso come dire, si trasferisce con un po' troppo accanimento ai ragazzi l'idea che magari determinati ambiti classici non abbiano Perfetto. Più spazio nel mondo del lavoro, invece in realtà ci si evolve anche da quel punto di vista, l'università lo fa con grande forza. professoressa Locatelli, ci sono già un sacco di messaggi anche via WhatsApp, ascoltatori che vogliono raccontarci la loro esperienza, vogliono allora un ascoltatore ha scritto: io ho scelto in base alla distanza da casa, e lui è voluto stare comodo, oppure avrei voluto studiare altro ma mi sono laureata in economia aziendale per praticità, molti corsi purtroppo non hanno sbocchi. Abbiamo chiesto: avete scelto più per cuore o per denari? Il sogno, il talento, vedi. E allora adesso sentiremo anche Stefano d'Alessandria e poi dobbiamo anche sentire rapidamente il traffico perché è tardissimo. Andiamo. Cuore e denari. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia. Chissà in quanti si apprestano a chiudersi nelle loro camere per affrontare i prossimi esami universitari, ma c'è anche la maturità, quindi un bacione anche a tutti i ragazzi che hanno tempi. Assolutamente, quanto vorremmo tornare indietro. Allora, con noi in questa prima parte di Cuore e Denari, dedicata tutta la trasmissione alla scelta della facoltà universitaria da frequentare a partire dal prossimo anno accademico, tante decisioni in ballo in questo momento nei nuclei familiari che ci stanno ascoltando. La nostra prima ospite di stamattina è la professoressa Alessandra Locatelli, delegata del Rettore dell'Università di Bologna per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico. Abbiamo sentito già delle testimonianze di ascoltatori che ci hanno scritto su WhatsApp. C'è anche Stefano d'Alessandria che vogliamo sentire subito. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Posso parlare? Certo. Certo. Okay. È buongiorno, interrogato. Come? È interrogato oggi. Ho fermato la macchina per rispondere, diciamo, anche con più concentrazione. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie di avermi ricontattato. Dunque, la mia storia è emblematica, no? Nel senso che io sono uno di quelli che alla scuola superiore ha fatto la scuola utile. All'epoca io ho 51 anni adesso, all'epoca era ragioneria, la scuola dove uscivi e trovavi subito il lavoro, cosa che è successa perché poi sono stato chiamato in banca, eccetera, eccetera. Ecco, ma il punto importante arriva poi il dopo, l'università. L'università io l'ho ripresa dopo parecchi anni e ho voluto fare per una volta nella mia vita un qualcosa che mi fosse davvero piaciuto. Quindi mi sono iscritto a Scienze della Comunicazione lavorando. Io nel frattempo ho incominciato un'attività commerciale e viaggio in Italia all'estero, quindi senza frequentare mi sono laureato in Scienze della Comunicazione. E quindi, insomma, questo sassolino che le era rimasto nella scarpa se l'è voluto togliere, scegliendo in un secondo momento della sua vita comunque di laurearsi, seguire la sua vocazione. Esatto. Stefano, ma lei oggi ha dei figli in età universitaria? Ci avviciniamo, no? Nel senso che di sassolini non ne avevo solo uno, ma ne avevo due almeno, ne avrei parecchi. Nel senso che mi sono iscritto 3 anni fa a filosofia e sempre lavorando faccio un po'. Ma lei oggi Stefano, lei l'ha fatto in un secondo momento lavorando, stabilità economica, ma ad un ragazzo di 19 anni appunto, oggi arrivo dunque, io non è che volevo fare la storia della mia vita, ma era per arrivare al dunque. Io ho una figlia che adesso fa il quarto anno di liceo e comunque si incomincia già a parlare dell'università. Ovvio, ecco. Certo. Io adesso a settembre do la seconda, sosterrò la tesi a settembre di filosofia, che è la seconda, è un, diciamo, un qualcosa che ho seguito in questo caso il cuore, non sicuramente. Stefano, andiamo a sua figlia, poi devo chiudere. Ah, ok, va bene. Anche mia figlia, il consiglio che ho dato assolutamente è quello di seguire il cuore. E poi comunque i denari verranno, dice lei. I denari verranno, comunque li cerchiamo e comunque insomma una vita va vissuta a livello così di istruzione, di preparazione su culture. Con un po' di entusiasmo. Grazie professoressa Locatelli. Allora, grazie, voi bocca al lupo. Sicuramente è condivisibile il ragionamento del nostro ascoltatore, ma è anche vero che gli atenei però guardano a quello che succede sul territorio e cercano di rafforzare i legami con le imprese per favorire poi le esperienze di lavoro prima di aver concluso gli studi, quindi si cerca di accontentare un po' tutti gli attori in questo dibattito. Assolutamente, assolutamente è vero, tant'è che l'Università di Bologna, trovandosi in un territorio, nel territorio dell'automotive, ha appena fatto partire un corso di laurea di ingegneria di advanced automotive e quindi è evidente che non si può prescindere dal territorio, da quello che offre e quindi sfruttare queste ricchezze che ci sono. Però contestualmente quelle che sono il cuore e quindi mi viene da dire anche quelli che sono i talenti dei ragazzi, perché ovviamente penso che in un qualche modo le passioni siano quelle che permettono ai ragazzi di avere determinazione, di avere coraggio nelle scelte, quindi anche questo va seguito. Certo. Professoressa Locatelli, cosa dicono, almeno dal vostro punto di vista, dai vostri osservatori, i dati più recenti? Entro quanto tempo dal conseguimento della laurea ci si riesce ad impiegare, direi con una certa stabilità, nel mondo del lavoro che vive ancora tutte le difficoltà che conosciamo e ancora, nonostante le tante iniziative proposte, il mondo universitario viene considerato un po' distaccato dalle esigenze del mercato del lavoro, pur raccontandoci lei prima in realtà l'evoluzione dei corsi di studio verso l'industria 4.0 e quant'altro, però insomma non è ovunque così, ci sono delle pratiche eccellenti in Italia, così come ancora delle situazioni un po' veramente distaccate dal mondo del lavoro. In quanto certo. tempo ci si riesce ad entrare? Allora, noi abbiamo delle statistiche che ci dicono che più o meno a Bologna ogni anno si laureano 16.500 studentesse Mamma e studenti. Mia. 16.500 solo a Bologna, quindi immaginate solo in tutto a Bologna. Italia. Consideriamo che Bologna è un mega ateneo, certo. perché noi abbiamo esatto. E dunque, le statistiche che derivano dai dati di Alma Laurea e che provengono da un campione di circa 30.000 laureati ci dicono che quasi il 70% dei nostri laureati e delle nostre laureate a un anno dalla conclusione degli studi svolge un lavoro retribuito. La percentuale di questi sale all'83% dopo 3 anni e all'88,5% dopo 5 anni. Sono dati soddisfacenti, secondo lei, oppure che siano, certo, c'è sempre un margine di miglioramento, noi siamo sempre... disponibili, certo, per far sì che diventi tutto il 100% di tutto. Assolutamente, ovviamente. E una cosa rilevante è anche il fatto che l'85% dei nostri ex studenti e studentesse è soddisfatto dell'università e si riscriverebbe nuovamente all'Università di Bologna. Carissimo. Anche questo è un dato interessante. Certo. Ci manca un minuto prima della nuova pausa, professoressa Locatelli, poi la trasleremo con noi nella seconda parte di Cuore Denari, ma l'ultimo rapporto del Consorzio Alma Laurea evidenzia che studiare all'estero aumenta le chance occupazionali di almeno 10-12% e a parità di condizioni non solo non comporta ritardi nella conclusione del percorso universitario, ma influenza positivamente la probabilità di ottenere elevate votazioni alla laurea. È anche quello un impegno economico per le famiglie? Quanto lo suggerite comunque? Studiare all'estero, dice lei, durante il percorso che compiono i nostri studenti. Sì, diciamo nel percorso universitario, perché poi non tutti possono fare l'anno di liceo all'estero, ma almeno durante il periodo universitario. Durante il percorso universitario noi siamo tra i primi 3 atenei in Europa che hanno mobilità studentesca, scambi studenteschi da 140 paesi del mondo, quindi noi favoriamo assolutamente laddove è possibile e sosteniamo anche con borse di studio quelli che si chiamano, sono i progetti Erasmus. Ecco, quindi di progetti. Per chi ha la preoccupazione economica, comunque quantomeno ci si può informare su. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Cuore e denari. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse. Eh beh, insomma, in realtà quando si tratta di pagare quelle universitarie avranno anche questa visione i genitori che sono pronti ad impegnarsi in questo investimento per il futuro dei figli, ma se si tratta di mettere mano al portafoglio, insomma, i dolori ci sono soprattutto per certe università. Ci sono però anche tante opportunità, borse di studio, qualche modalità di alleggerimento fiscale che ci viene consentita. Insomma, parleremo anche di questo in questa seconda parte di Cuore e Denari. questa mattina, tutta dedicata alla scelta universitaria che molti ragazzi sono in procinto di fare, con la collaborazione qualche volta un po' anche con qualche ostacolo da parte delle famiglie, che chiaramente guardano anche le conseguenze di carattere pratico della propria scelta. Ci sta aiutando la professoressa Alessandra Locatelli, appunto, dell'Università di Bologna, responsabile per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico, delegata del rettore. E ci ha raggiunto Luciano De Vico, esperto fiscale delle Sole 24 Ore, che salutiamo. Dottor De Vico, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, prima di andare agli incentivi fiscali, che in realtà conosciamo, volevo rifare un'altra domanda alla dottoressa Locatelli, alla professoressa Locatelli, perché per le tasse universitarie è in arrivo una vera e propria rivoluzione. Nell'ultima legge di bilancio è stato introdotto lo Student Act, che contiene una no tax area per gli studenti che si trovano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate. Ci spiega meglio di che cosa si tratta? Viene riconosciuto in automatico questo, mi passa il termine, bonus, e come orientarsi anche nella giungla delle tasse universitarie in virtù di questa novità, e come Sistema Bologna, come vi state attrezzando per questo? Già anticipato, la legge di bilancio 2017 ha innovato in misura rilevante il quadro normativo in materia di contribuzioni studentesche, per cui inizialmente con la nuova normativa viene introdotto il principio che appunto la contribuzione va calcolata in base alle condizioni economiche delle famiglie dei ragazzi che si iscriveranno all'università, per cui sono stati stabiliti i livelli minimi. Il livello minimo stabilito dalla normativa è la no tax area, cioè l'esonero totale del contributo da parte di coloro che hanno, delle famiglie che hanno un ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro. L'Università di Bologna, come prima reazione a questa normativa, come ha alzato questo tetto al 23.000 euro di ISEE. Quindi noi siamo partiti, cioè partirà l'anno prossimo questo sistema di no tax area innalzato ai 23.000 euro ISEE e non ai 13.000. Certo. Inoltre, oltre a queste agevolazioni, è stata abolita la tassa di laurea, nonché sono stati ridotti i contributi per il test di accesso, i corsi di accesso ai test di ammissione, in quanto occorre dire che moltissimi corsi di studio nei nostri atenei sono corsi a numero chiuso, diverse tipologie di numero chiuso, e quindi per accedere al test di accesso occorre pagare una quota. Ecco, abbiamo ridotto anche questo. Quindi insomma, un diritto allo studio garantito sempre di più a livello universale. Assolutamente, si vuole cercare di rispettare appunto il criterio di equità per quello che riguarda il diritto allo studio. Chiarissimo. Quindi no tax area contemplata dallo Student Act, applicata da tutte le università italiane, che hanno già approvato le nuove regole, ma alcune hanno introdotto anche dei meccanismi specifici e più vantaggiosi. Allora, Luciano De Vico, le spese relative all'istruzione universitaria consentono di ottenere, attraverso la dichiarazione dei redditi, una detrazione IRPEF pari al 19% dell'importo effettivamente pagato nell'anno. Su che base viene calcolato lo sconto? Sì, hai detto bene, è una detrazione d'imposta, e quindi questo 19% va a ridurre l'IRPEF lorda. E viene calcolato su cosa? Sulle tasse di matricolazione e di iscrizione, sulle sovrattasse per esami di profitto e di laurea, anche sui costi per partecipare ai test di ammissione. E quello che conta ovviamente è l'anno in cui la spesa è sostenuta, ed è del tutto irrilevante sia l'età dello studente, sia la circostanza che lo studente sia in regola con gli esami o fuori corso. Qualunque altro costo, come per esempio il vitto, il trasporto, il materiale didattico, quindi libri e quant'altro, non gode di nessuna detrazione, non gode di nessun beneficio fiscale. Mm. C'è da considerare tra università pubblica o privata, oppure la detrazione vale per tutti gli atenei, per l'iscrizione a qualunque ateneo? No, c'è una differenza. Infatti, se l'università è pubblica, la legge non prevede alcun tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 19%. Invece per le università private, già dallo scorso anno, i limiti di detraibilità vengono stabiliti annualmente da un decreto del Ministero. Per il 2016, e quindi per la dichiarazione dei redditi che ci apprestiamo a presentare quest'anno, il decreto è stato approvato a dicembre 2016 appunto, e ha fissato un importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione, distinguendo da una parte l'area disciplinare, e quindi medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale, e dall'altra l'area in cui l'università è ubicata, suddivisa in nord, centro, sud e isole. Ad esempio, se si studia fisica a un'università privata a Roma, l'importo massimo detraibile previsto dal decreto è di 2.400 euro, questo perché fisica fa parte dell'area scientifico-tecnologica e l'università è ubicata a centro, certo, Italia. A questo importo poi si deve aggiungere l'eventuale spesa per il test di ammissione e la tassa regionale per il diritto allo studio, evidentemente, infatti, che vengono aggiunte a questi importi stabiliti dal decreto. Professoressa Locatelli, ritornando per un attimo allo Student Act e alla No Tax Area, non abbiamo specificato, ma mi pare di capire che non venga considerato, la questione del merito. Non c'entra nulla aver, che ne so, magari ottenuto un determinato voto all'uscita dalla scuola superiore o... No, ecco. Dunque, diciamo che appunto il vincolo, uno è quello dell'ISEE e poi... ovviamente il merito entra in gioco negli anni successivi, al primo, per poter mantenere questo. Questo non toglie che però ancora l'Università di Bologna metta in campo delle azioni anche per valorizzare il merito, per cui ci sono delle borse di studio per la valorizzazione del merito, studenti meritevoli in generale, poi noi abbiamo un'istituzione di eccellenza che è il Collegio Superiore, e appunto al quale si viene ammessi esclusivamente in base al merito, e questo Collegio Superiore è un'istituzione alla quale possono accedere gli studenti, diciamo così, 10 studenti all'anno per quello che riguarda le lauree triennali e 10 per quello che riguarda le lauree magistrali. Ovviamente per quanto riguarda le lauree magistrali e ciclo unico ci sarà un po', gli studenti potranno accedere sia al primo anno, quindi parimenti a quelli delle lauree triennali, o potranno chiedere di accedere dal quarto anno in poi, parimenti a quelli delle magistrali. E occorre dire che sono 5 borse per l'area umanistico-sociale e 5 borse per l'area tecnologico-scientifica. Questo vuol dire che gli studenti hanno totalmente esonero dalle tasse e residenza gratuita più tutta una serie di agevolazioni. Insomma, quindi, sono, diciamo, cose importanti. Merito, sì, assolutamente, viene premiato anche a prescindere dagli ISEE, perché è giusto anche questo. Allora, no, noi ci piace soffermarci soprattutto su questi aspetti, perché non vorrei che magari qualche famiglia un po' preoccupata delle questioni economiche non lasciasse cogliere delle opportunità ai propri figli, informandosi invece con molta cura si possono appunto reperire queste informazioni e alleggerire il peso economico, appunto, perché per le famiglie è notevole. Tra l'altro, professoressa Locatelli, poi vi lasciamo e diamo l'assist a Nicoletta, magari con questa domanda per la seconda parte del programma, sempre dedicato al tema della scelta universitaria, ma da ulteriori punti di vista. Quanti ai vostri sportelli di orientamento vengono accompagnati da mamma e papà, e magari voi notate che sono un po' così insistenti su determinate scelte piuttosto che altre? No, lo sportello di orientamento arriva allo studente. Ah, ecco. Non nego però che quando noi abbiamo un evento di rilevanza veramente nazionale, che è Alma Orienta, che solitamente si svolge all'inizio dell'anno solare, diciamo così, e quest'anno ha visto la partecipazione di 30.000 studenti, ecco, in quel caso vediamo anche la partecipazione di alcuni genitori. Occorre dire che appunto magari fuori sede ne approfittano per venire accompagnati dei genitori, perché quella può essere l'occasione di cominciare a cercare anche un alloggio. Ah, certo. C'è però chi viene accompagnato dal genitore che vorrebbe entrare nel merito della scelta, questo è innegabile, però non sono percentuali particolarmente significative. Viene garantito un certo grado di autonomia ai ragazzi in questa scelta, professoressa Locatelli. Sempre di più. Infatti. Grazie molte per essere stata con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie anche a Luciano De Vico per essere stato con noi su alcuni aspetti di natura fiscale della scelta universitaria. Grazie. Nicoletta, adesso qua cominciamo noi la continuiamo batteria a chiedere, perché bella, vogliamo capire dai nostri ascoltatori, tornate un po' indietro nel tempo e raccontateci se avete scelto più per il cuore o per i denari, se avete cercato di realizzare un vostro sogno, se avevate le idee ben chiare, soprattutto che cosa come aiutate i vostri figli a prendere una decisione. Noi vogliamo un po' confrontarci, perché dalle esperienze nasce sempre qualche idea, magari evitiamo uno sbaglio oppure ci rincuoriamo e andiamo avanti nel nostro progetto. Allora abbiamo chiesto a degli amici di venirci a trovare. Il primo è un amico che ci sta particolarmente a cuore, è un medico, uno scrittore, Andrea Vitali, è in linea con noi. Ciao Andrea. Sì, ciao a tutti, ciao. Andrea, grazie. Ecco, prego. Tu sei diventato un dottor, hai scelto medicina. Allora, sì. Andiamo indietro, lo volevi fare, come l'hai scelta? Chi te l'ha suggerito? Ecco, appunto, io già obietterei sul termine scegliere, perché la mia non è stata esattamente una scelta, perlomeno una scelta personale, perché devo essere sincero fino in fondo. Alla fine del liceo ero assolutamente confuso, ma cioè, già sarebbe stata una bella cosa essere confuso, non sapevo proprio da che parte andare, per cui la mia scelta, più che una vocazione vera e propria, è stata per metà una sorta di scelta per imitazione. Vengo da una classe di terza liceo in cui la metà almeno si iscrissero a medicina, poi in fondo ci arrivammo in tre, però seguì un po' l'onda tutto sommato. E in maniera particolare mi fu sufficiente dire in famiglia che forse mi sarebbe piaciuto fare medici, arrivai a metà di medicina e mi trovai già iscritto alla facoltà, per cui... Volevano avere un medico in casa i tuoi, così sì, non sai, si sa mai, ti pare? Sì, io, cioè, come dire, mio padre, come tanti padri, voleva nei figli trovare il riscatto di una di cose che lui, per questioni, diciamo, legate a molti fattori, la guerra eccetera, così non è riuscito a fare, per cui la sua spinta era quella verso uno studio pur che sia, e io venni accompagnato, ecco, verso la facoltà di medicina, cosa della quale non mi sono mai lamentato, ben inteso, però fu una scelta non canonica. Senti Andrea, ma adesso tu a tuo figlio che cosa suggeriresti? Tu che hai scelto l'università un po' per così far piacere anche un po' ai tuoi, o per seguire l'amico che era in classe con te, se dovessi dare a tuo figlio oppure a un nostro ascoltatore, ai genitori di un ragazzo che ci stanno ascoltando un po' indeciso sul da farsi, tu che poi hai fatto medicina, ma poi hai così seguito una tua grande passione che è... Sì. Ecco, tu sei un'eccellenza, quindi sei riuscito a fare il medico e lo scrittore, e tutto ad alto livello. Ma un suggerimento? Sì, ascolta, cioè io ho fatto medicina, ho fatto anche un figlio insieme con mia moglie, naturalmente, ho affrontato questo che non è un problema, diciamo, questa situazione un annetto fa. Io mi sono dato il compito di ascoltare molto, diciamo, le sue propensioni, cioè di ascoltarlo in quello che lo affascina di più nella vita, e la cosa che gli ho detto è: fa una cosa che ti renda felice. Ecco, per cui sicuramente, certo, se mi avessi detto voglio andare in giro per il mondo tutta la vita, gli avrei detto no. La mia intenzione era quello di aiutarlo a trovare una strada di studio, naturalmente di impegno quotidiano, che possa eventualmente dargli un po' di futuro, e quindi abbiamo fatto consensualmente una scelta che è da una parte la facoltà di filosofia e dall'altra una scuola professionale di musica, quindi due scelte che garantiscono, come tu ben capisci, un futuro praticamente certo. Perché voi fate sempre due cose insieme? Sì, di ragionare sulle cose, insomma, sullo stato anche dell'arte, e quindi la scelta è capitata su due attività, diciamo, di studio e non solo, che sicuramente non garantiscono un futuro certo, ma perlomeno garantiscono una certa felicità, una certa lievità nell'affrontare poi le difficoltà della vita. Senti Andrea, ma tu quando verrai a trovarci? Abbiamo, perché tu lavori sempre, scrivi sempre, adesso sì, l'ultimo è A cantare Fulcane, Garzanti, che è un'indagine sempre molto intricata e questa volta ambientata negli anni 30. Sì, è sempre sul lago di Como, da dove arriva anche la Laura Vanossi, siete due laghe voi. Rigorosamente radicati su queste terre, e guai a chi ci sposta. Ecco, fai il laghe, vieni un po' a Milano in studio da noi, che facciamo una puntatina alla Cuore Denari con te. Benvolentieri. volentieri, con te Nico abbiamo un accordo che troverà sicuramente una soluzione, diciamo, molto pratica e spero anche molto divertente. Allora ti aspettiamo. E questo segreto qua lanciato è un segretino, così, sai, tra le vitale. Allora intanto 800 24 00 24, vogliamo anche così dare delle indicazioni, dei consigli, analizzare il caso di quei ragazzi che, finita la maturità, dicono: ma io non so che cosa fare, non mi piace niente in modo particolare, come si dice in cosa, bimblanano un po', sono confusi. Chiederemo al nostro amico Giovanni Gabrielli, un mental coach, di cercare di capire come tirare fuori da questa situazione di imbarazzo il nostro figlio. Ma noi continuiamo, perché dal lago di Andrea Vitali passiamo a un laboratorio, e ad aspettarci in laboratorio c'è una giovanissima Sara Rezzola. Sara, ciao. Rezzola, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ti diamo del tu, perché stiamo parlando con la più giovane ricercatrice dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Buongiorno, è un piacere essere con voi oggi. Sara, non si dice l'età delle signore, ma io la tua la dico, classe 1987, quindi 29 anni. Sì, un lavoro tra pochi giorni. Brava, anche tu dei gemelli. Sì, il 19 giugno. Eccola, ma vedi un po'. 8, 17, 19, una squadra vincente. Tu lavori presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, già sì, dirlo già è difficile. Corretto. Anche per noi. Ecco, anche per noi. All'Università degli Studi di Brescia. E quindi, ecco, ma come sei capitata lì? Chi ti ha dato l'idea? La portavi già nel cuore? Hai scelto tu? È stata ti sei trovata allora, lì per caso? Io vi anticipo che la mia scelta è sicuramente stata una scelta di cuore sin dall'inizio. Ho sempre desiderato fare la ricercatrice, quando proprio non avevo minimamente idea di che cosa questo significasse, e quindi sentivo prima, insomma, effettivamente anche nel mio caso io ho finito il liceo e ho deciso di iscrivermi a biotecnologie senza davvero sapere a cosa stessi andando incontro, e poi la certezza di aver fatto la scelta giusta l'ho avuta solo durante gli studi e poi una volta che gli studi sono stati completati. Sicuramente sono stata anche fortunata, perché ho avuto la fortuna di trovare la mia strada al primo tentativo, cosa che non è sempre detto che succeda, ecco. Senti Sara, quando si parla di ricerca, insomma, c'è tutta i tuoi genitori ti hanno appoggiato o hanno, perché sì, sai, noi tutte le volte diciamo bisogna credere nella ricerca, investire nella ricerca, ma sappiamo che molti ragazzi per fare ricerca devono andare fuori dall'Italia e che comunque la vita del ricercatore è una vita molto impegnativa, è un percorso sfidante dove ci vuole tanta competenza sicuramente, ma anche delle opportunità che non sempre arrivano. Sono stata abbastanza rotonda, non volevo... No, assolutamente. Allora, è sicuramente tutto vero. Quindi è vero che le possibilità sono quelle che sono, che i fondi sono pochi, che spesso e volentieri bisogna pensare di andare all'estero, è tutto vero. Però è anche vero che abbiamo dei centri di eccellenza anche qui in Italia, che le possibilità ci sono, che se una persona è valida, motivata, può farcela, e io e tante mie, siamo quasi tutte donne, quindi per questo parlo al femminile, colleghe qui in laboratorio, siamo la dimostrazione poi pratica che si può fare ricerca anche in Italia. Poi tra l'altro ne approfitto per ricordare che, come voi avete già detto all'inizio, sono una borsista AIRC, quindi l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, perché ci sono associazioni come AIRC che permettono a noi giovani di poter lavorare, quindi ci finanziano, ci permettono di avere uno stipendio, e quindi indipendentemente dalla questione del denaro, ecco, quando una passione è forte e si è motivati in maniera adeguata, secondo me si può fare tutto, e la mia famiglia in questo è sempre stata dalla tua parte, come si dice. Senti, senti, ma tu, e così ti leggo un messaggio che è arrivato via WhatsApp da un genitore, ma tu eri molto brava a scuola, perché per scegliere facoltà di questo tipo, scrive via WhatsApp un ascoltatore, naturalmente bisogna essere ragazzi che si impegnano nello studio e che mostrano una certa capacità anche ad affrontare, insomma, perché il percorso è abbastanza complicato, insomma. Sì, sì, me la sono sempre cavata, diciamo. Ecco, me la allora sono vuol dire che era brava, perché... è modesta, è modesta. Perché il nostro ascoltatore via WhatsApp dice: mio figlio è molto simpatico, ma è un asino, e non credo che potrebbe fare ricerca. Ma non si può mai dire, perché poi i ragazzi cambiano, vero? Esatto, esatto. Poi secondo me un conto sono gli studi liceali, dove in qualche modo si sceglie un indirizzo, questo è chiaro, però è diverso all'università studiare proprio le materie a cui si è appassionati. La mentalità proprio cambia. Da un lato si cresce e quindi l'università è una scelta consapevole che uno fa, e di conseguenza poi l'impegno che ci mette è probabilmente anche diverso. In più si ritrova a studiare materie che ama o che pensa, insomma, di amare, lo scoprirà poi strada facendo. Allora, grazie. Io non mi precluderei nulla. Allora, il tuo messaggio è chiaro, quindi fate parlare il cuore e la vostra passione. Grazie e complimenti. Grazie a voi, buona giornata e buona continuazione. Grazie, noi andiamo a sentire i mercati. Siamo in questa giornata di mercati finanziari che naturalmente ancora una volta si confronta con tutte le indicazioni politiche fortissime emerse nel weekend. Arriviamo subitissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Un amico, un genitore, un fratello, un cugino, un esperto, ci vorrebbe qualcuno capace di sostenere e aiutare i nostri ragazzi a scegliere bene, ma anche ci vorrebbe un amico, un esperto, un professore, un genitore per riorientare un ragazzo che ha preso una decisione che poi si è rivelata non adeguata, non corretta. Può capitare. Allora di questo parliamo nella seconda parte di Cuore Denari. E allora, se avete figli, 800 24 0024, alle prese con questa grande decisione. Infatti, no, stavo pensando, l'avresti mai detto che avresti fatto Cuore Denari con me nel tuo futuro radioso di giornalista radiofonica. Siamo state fortunate, molto fortunate, Perché quella è una componente, un filino importante. State fortunate perché abbiamo saputo così metabolizzare questa scelta che è stata presa da altri. Esatto. E l'abbiamo trasformata in quella che ciascuno di noi vedeva come un limite, perché eravamo un po' limitate condividere uno spazio, e l'abbiamo trasformata prima di tutto in una grande amicizia. Poi in una grande opportunità per i nostri ascoltatori di avere così a disposizione ogni giorno tante informazioni da parte di due cialtrone. Sì. E no, insomma, come dire, la dote della flessibilità forse è quella che ci ha più caratterizzato in questa esperienza, no? Chiediamo se la nostra mente ha dopo funzionato bene. Dopo che ci siamo bene. Fatte tutti questi complimenti da sole, chissà cosa ne pensa il nostro ospite. Giovanni Gabrielli, mental coach, che è in linea con noi. Esatto. Ciao Giovanni. Ci dobbiamo far vedere da uno bravo, eh? Sì. Buongiorno alla donna di cuori Nicoletta, alla donna di denari Deborah. Eccoci. E a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Eccomi qua. Allora, Giovanni, noi abbiamo bisogno di avere da te che lavori proprio con sportivi, soprattutto di alto livello, che tu prepari a vincere una gara, una partita, una medaglia, a diventare e soprattutto preparo, a gestire le emozioni. A gestire le emozioni. I momenti difficili, anche gli infortuni e le sconfitte. Certo. Cioè non ti metti lì a fargli fare i pesi, ma soprattutto lavori sulla loro testa. Sulla loro... Ecco, in fondo quello è questo che fa un mental coach. Aiuti la mente a gestire gli stress, le tensioni emotive. E tra l'altro hai sviluppato proprio un modello che consente di lavorare sul cambiamento di micro comportamenti. Quindi io partirei. Tu non hai colto la provocazione di Deborah, che voleva che affidarti il nostro duo, che è un duo un po' particolare. Ci vuole uno più bravo. Ci vuole uno per voi ci vuole uno più bravo. Invece vogliamo partire dal caso, molti genitori ce lo stanno segnalando, di ragazzi che non sembrano avere nessun desiderio particolare, sono confusi, dicono sì, adesso vabbè, fammi dare la maturità, poi vedo. Poca progettualità. Poca progettualità, mi mancava la parola. In questi casi che sembrano di stallo, che cosa fare? Scegliere per loro, accompagnarli? Poi parleremo proprio di genitori con un'esperta dell'Università di Milano Bicocca, che dedica proprio ai genitori dei corsi di orientamento. Ma intanto occupiamoci di lui. Sembra che nulla lo interessi. Guarda, io vorrei ritornare con voi per rispondere a questa domanda al 1480 e a una frase che ha scritto Leonardo da Vinci, che ha detto: se il mangiare senza voglia sia dannoso alla salute, così lo studio senza desiderio guasta la memoria e non ritiene cosa che la pigli. Questo lo diceva nel 1480 Leonardo, ed è la base di partenza, desiderio. Il desiderio di fare qualcosa, la passione di fare qualcosa. Queste cose ci danno motivazione, ci danno orientamento all'obiettivo, focalizzazione, determinazione, che ci porta poi a ottenere risultati. In questo momento i nostri ragazzi che io vedo nelle scuole, eccetera, sono bassi in due cose. Una si chiama agentività. L'agentività è la capacità di agire verso un obiettivo specifico. E cioè la capacità, l'arte di far accadere le cose, che in un atleta è molto importante. È un qualcosa che ha a che fare con la sicurezza personale e ha a che fare anche con la voglia di mettersi in gioco, e quindi ritorno sempre a quei criteri di autostima e di autoefficacia. E la seconda invece è un'altra cosa tipica della nostra società di adesso, che è la psicoastenia. La psicoastenia la possiamo considerare come una vera e propria mancanza di resistenza alla fatica mentale, data da disattenzione, distrazione, dissociazione. Ecco, le persone che entrano in un percorso universitario probabilmente hanno in questo momento molto spesso una bassa agentività e una bassa psicoastenia. Senti, ma tu Giovanni devi suggerire a noi genitori dei giovani che sono all'ascolto, che ci stanno scrivendo, quel cambiamento di microcomportamento per dare là, perché così a noi piace soprattutto tu come mental coach, perché dalla teoria passi alla pratica, casi guarda, concreti, un passo da fare. Guarda, il primo passo è di accettare che non c'è nessun modo di sapere prima dove ci porterà una specifica decisione. Quindi non ci sono decisioni giuste o sbagliate, ci sono decisioni che nel momento in cui le prendiamo ci sembrano quelle più corrette. Quindi io direi questo: cercate di capire se il vostro figlio o se voi stessi... in voi stessi ci sono passioni o quantomeno il desiderio di andare verso un obiettivo specifico. Molto spesso noi non abbiamo obiettivi specifici e quindi non ci lasciamo guidare da questo. Guardavo stamattina le ragioni per cui si continua il percorso all'università e fondamentalmente sono quattro: desiderio di proseguire gli studi per lo sviluppo intellettuale, un allontanamento del tempo di ingresso nel lavoro, ma ciò prima di diventare un disoccupato aspetto 3-4 anni ancora, oppure rimanere con il gruppo di amici, oppure il desiderio di viaggiare, quindi andare a fare esperienze in un'altra nazione, oppure pensare poi a un Erasmus, eccetera. E veramente sono molto pochi quelli che sono focalizzati nel verso un obiettivo specifico. Io credo proprio che se voi guardate le persone, gli studenti decidono cosa fare nell'università, molto spesso l'ultimo mese della scuola secondaria, oppure anche gli ultimi 7 giorni prima di fare questo. Poi ci sono quelli che invece cominciano a fare i test di ammissione, sono focalizzati. E quelli sono più fortunati perché forse hanno più le idee chiare. No, la fortuna qua non c'è, c'è il desiderio di perseguire un obiettivo, quindi avere chiaro l'obiettivo, avere ben chiaro l'obiettivo. Io consiglierei questo: cercate di capire le cose che vi piace fare. Le cose che vi piace fare, le cose che vi interessano, argomenti, cosa amate leggere e quando pensate al vostro futuro dove vi vedete, perché noi stiamo già comunque dicendo sempre l'orientamento per l'università, ma ci può essere anche un orientamento a non proseguire l'università, certo, ma in essere inseriti nel mondo del lavoro o veramente perseguire il proprio sogno. Perseguire il proprio sogno molto spesso è una cosa molto teorica, sarebbe bello fare della propria passione il proprio lavoro, ma non sempre è così. Quindi bisogna avere obiettivi che ti danno la motivazione e bisogna cercare di fare i conti con il proprio modelli comportamentali. Poi insomma è un momento un po' complesso, sfidante, perché volenti o nolenti dobbiamo un po' guardarci dentro e diventa difficile per noi adulti e soprattutto ancora di più per un ragazzo che sa che la scelta dell'università o di non fare l'università ha sicuramente un peso importante per la sua vita futura. Giovanni, noi ti salutiamo, andiamo a sentire. Grazie. Che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Abbiamo tra poco con noi Elisabetta Camussi, che è professoressa di psicologia sociale all'Università di Bicocca, con cui parleremo di corsi di orientamento, ma anche di riorientamento e anche di corsi per genitori, ma soprattutto la metteremo subito a lavorare con due quesiti, uno di Nicola dalla provincia di Milano e dall'altro da Mario dalla provincia di Napoli. Per cui, dottoressa, professoressa Camussi, al lavoro, a tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati, ultima parte di Cuore e denari, oggi è dedicata alla scelta dell'università. Mercoledì, vi ricordiamo, uscirà con il Sole 24 Ore, esatto, una guida per orientarsi al meglio, ma abbiamo dato anche noi un piccolo contributo, ma un contributo assolutamente più concreto ce lo darà tra poco la prossima ospite, la professoressa Elisabetta Camussi, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca. Buongiorno. Professore, buongiorno a voi. Buongiorno. Lei sa che io la metto subito al lavoro, perché certamente. Eccola qua. Allora, Nicola dalla provincia di Milano e Mario dalla provincia di Napoli hanno bisogno di un aiuto. Facciamo finta che siano due genitori che si rivolgono, tra l'altro voi all'Università Milano Bicocca avete dei corsi proprio di orientamento anche per i genitori. Siete, sì, stati i primi, se non sì, tra i primi. Dal 2012. Dal sì, 2012. Iniziato. Allora, Nicola, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi, signore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono il padre di un ragazzo 17enne che è passato due volte in un liceo e quest'estate, sì, cioè da oggi praticamente, l'ho accompagnato a lavorare in un cantiere. Gestisco dei cantieri, quindi ho avuto la possibilità di assumerlo, ma questo naturalmente nella speranza di rincentivarlo a tornare a scuola e fargli capire che lavorare 8 ore sotto il sole forse è un tantino peggio che finire gli studi. Il rischio è che poi, come vedo sta succedendo in molti ragazzi della sua età, si innamori dello stipendio, cioè di avere finalmente un'autonomia economica in tasca, e decida di lasciare la scuola definitivamente. Sto facendo male o bene, dottoressa? Allora io sì, posso dire questo, che l'orientamento a come si costruisce un futuro, una vita, una possibilità dovrebbe cominciare molto prima, e noi come Ateneo stiamo lavorando su questo da tanto tempo, cioè bisognerebbe cominciare da quando si è alle elementari a, come si suol dire, progettarsi il futuro. Certamente quando parliamo di ragazzi che hanno già 17 anni non possiamo rispondere tornate alle elementari e chiedete che anche le vostre insegnanti lavorino su questo, però possiamo davvero invece come genitori riuscire a lavorare su questa dimensione. È possibile che Nicola si innamori dello stipendio, ma è anche possibile che noi adulti di riferimento e magari i servizi universitari, noi ne abbiamo di fruibili gratuitamente su questo, possano aiutare a riflettere rispetto ad una trasposizione della vita attuale nel futuro, cioè mi innamoro del mio stipendio oggi, ma che persona, che cittadino sarò per il resto della vita? Quanta capacità avrò di interagire con la realtà che cambia e che ad esempio diventa sempre più tecnologica, di una tecnologia della quale io posso essere artefice e buon fruitore, oppure semplicemente passivo suddito, nella misura in cui la mia capacità di continuare ad imparare diminuisce o invece si accresce. Ad oggi fare l'università non vuol dire garantire una linearità tra ciò che studio e ciò che farò, come dire, il nome del corso di laurea uguale al nome del lavoro, ma vuol dire dotarsi di strumenti che ci permettano di stare nella complessità, che a oggi è la cifra della contemporaneità. Non è un accidente che a qualcuno capita e invece qualcun altro può riuscire a superare recuperarlo indenne. Per questo io suggerirei a Nicola e al suo papà, che come dire già si sta molto attivando su questo ed è un'ottima cosa, di cercare un servizio universitario di consulenza e di orientamento. Ne esistono diversi, in diverse università italiane ci stiamo lavorando tanto, nonostante il sottofinanziamento delle università da tantissimi anni. Stiamo investendo su questo perché la costruzione di progettualità è una costruzione che riguarda non solamente l'oggi, ma la possibilità, esatto, di stare bene ed avere una vita buona dentro la complessità della contemporaneità. Senti, promossa, vero? Ma, promossa, pieni voti. Eravamo appesi alle sue parole. Ecco, ci cadeva la mandibola. Mario, dalla provincia di Napoli, la faccia difficile questa volta, per la professoressa Camussi. Mario, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione e soprattutto per il lavoro che realizzo sole 24 ore per i genitori e per i ragazzi con le guide che ogni anno proponete. Grazie Mario, venga alla... Allora Mario, allora un attimo, leggo il collegamento, non va bene, ma leggo la sintesi della richiesta di Mario. Il figlio aveva fatto un test di ammissione a medicina, li ha superati, ma poi ha deciso di studiare a Padova lettere classiche. Qua c'è un po' l'insoddisfazione del genitore. Questa telefonata di Mario, che non abbiamo poi potuto sentire per ragioni tecniche, ci dà uno straordinario assist per parlare del ruolo dei genitori che voi a cui voi dedicate anche dei corsi di orientamento, perché sicuramente il genitore di oggi è un genitore che partecipa molto attivamente, a volte diventando anche un po' invadente nella scelta dei figli. Professoressa Camussi. Allora, intanto mi complimento con il fatto che possiamo dire che il test di medicina qualcuno lo supera e poi si permette anche di dire ma io altro voglio fare nella vita, perché questo è un segnale molto importante, intanto del fatto che la progettualità di cui parlavamo prima chiede un investimento che riguarda sé, non riguarda ciò che i genitori desiderano. I genitori legittimamente desiderano una vita buona, bella, soddisfacente, danarosa, realizzata, eccetera, eccetera, per i propri figli e figlie, ma continuano a ragionare su quelli che sono stati i modelli classici. Non a caso, se si chiede ai genitori, l'abbiamo fatto con diverse indagini, quali sono i lavori del futuro che desidererebbero per i propri figli, ci si sente rispondere il medico, l'avvocato, il commercialista, l'ingegnere. Lavori che come tali non esistono più nella definizione classica, ma che verranno mutati e sono già mutati a partire dal titolo dei corsi di laurea nella contemporaneità. Professoressa, allora, abbiamo meno di un minuto. Sì, allora quello che si può fare è che è ottimo fare lettere classiche laddove si consideri lettere classiche, non appunto di nuovo un viatico diretto a fare, ad esempio come nel vostro caso, il giornalista o la giornalista, ma come il luogo in cui si tesaurizzano delle competenze molto bene, senza sapere dove e come le utilizzerò. Più probabilmente le utilizzerò lavorando con tecnologi ed antropologi per pensare della tecnologia che sia centrata sulle persone, rispetto alle quali le competenze di tutti e tutte le tipologie di competenze continuano ad essere ugualmente necessarie, purché si abbia la capacità di metterle al servizio di un lavoro d'equipe e non semplicemente di un'affermazione individuale. Ecco, bisogna guardare il futuro e aprire la mente. Sì, e mettere i genitori accanto, dire loro semplicemente che se non riescono a fare un passo indietro lo facciano almeno di lato, avendo fiducia nelle risorse dei propri figli. Perfetto, bellissimo. Grazie professoressa Camussi, ci sentiremo prestissimo. Buona giornata, bella puntata abbiamo fatto, sempre mantenendoci nell'onda della modestia stamattina. A domani, buona giornata.